tua collana palpita col tuo cuore. Un grande amore di poche parole. Sei così nuova, così europea, e fai con me quello che la luna fa con la marea, che il dormiveglia fa con un'idea. Nel vento sotto le maniche sento le tue mani gelide, non riesco ancora a distinguerle. Io non so se fermarmi adesso oppure correre a più non posso. Metti un orecchio sul mio petto e all'improvviso hai capito tutto. Non c'è alibi più debole di un alibi di ferro per continuare a piangersi addosso. Sopra i 3000 Kelvin, ma facce pallide come fantasmi. Grandi amori fatti di pochi sguardi, per riconoscersi come due intrusi in un mondo d'altri. Farsi brillare come petardi. Nel buio sotto le palpebre,